lecito o dall'illecito. Anche il cristiano non è esente dalla l'insoddisfazione è parte integrante della nostra esistenza. Per il solo fatto che esistiamo, siamo carenti di tutto e ci rivolgiamo ovunque per trovare quell'appagamento che possa dare tranquillità al nostro corpo, al nostro spirito e alla nostra anima. Infatti, per alcune malattie corporali, perfino gli increduli a volte si rivolgono al soprannaturale senza considerare la provenienza della guarigione, cioè se essa procede da Dio o da Satana. Come del resto accade anche per l'appagamento dei propri sentimenti o di un certo bisogno spirituale, l'importante è trovarne la soddisfazione, sia che essa abbia origine dalla legge dell'insoddisfazione. Perché prima di essere un credente è un essere umano come tutti, perciò, benché abbia ottenuto da Dio inesprimibili e incommensurabili doni quali la pace e la gioia, moltissime certezze e appagamenti prende è possibile per un credente risolvere l'aspetto umano della sua insoddisfazione. Se è possibile, come può un cristiano risolvere i suoi bisogni insoddisfatti? Sì, è possibile risolvere i propri bisogni insoddisfatti. Le vie di Dio al proposito sono tante, ma esiste un principio stabilito da Gesù Cristo che è in grado di risolvere ogni bisogno, sia fisico sia morale. Questo principio Gesù lo ha trasmesso nel discorso del Sermone sul Monte, quando invita tutti coloro che hanno posto fede in Lui a non essere ansiosamente solleciti della vita e di quello che si deve mangiare, bere o vestire. Dopo aver fatto presente come il Padre Celeste si occupi della natura e degli animali, Gesù conclude con le seguenti parole. Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo. Poiché sono gli increduli quelli che cercano tutte queste cose, il Padre vostro Celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Matteo 6.31-33. Queste parole non suonano nuove. Spesso vengono lette in varie occasioni per incoraggiare i credenti ad avere fiducia nella provvidenza da parte di Dio alle loro necessità. Ma lette e rilette, alla luce della nostra umana insoddisfazione, se prese sul serio, sono in grado di farci comprendere qual è la normale via di Dio per il credente affinché trovi la risposta ai propri bisogni insoddisfatti. Stando così le cose, queste parole di Gesù meritano tutta la nostra attenzione. La ragione per la quale Gesù ordina a coloro che hanno posto fede in Lui di non essere con ansietà solleciti della vita consiste nella realtà che il Padre Celeste sa quello di cui hanno bisogno. Anche se questa verità non toglie di fatto l'indigenza, comunque consola, perché non solo si soffre per la mancanza di una cosa, ma spesso anche perché non si è compresi. Se si soffre per la morte di un figlio e si ricevono delle parole di consolazione da parte di chi non ha mai provato un lutto nella sua vita, è molto diverso dal ricevere parole di conforto da chi può comprenderci perché ha subito la perdita di un figlio. Il Padre Celeste sa. Il Padre Celeste comprende e conosce a fondo i miei bisogni. Conosce la mia necessità lecita e umana di essere amato, compreso, abbracciato. Conosce le tue necessità più segrete, anche quelle che ti sono nascoste e condizionano comunque il tuo modo di vivere e di parlare. Nulla è nascosto a Dio e Lui ha conoscenza delle mie profonde necessità che mi accompagnano tra le mille gioie e soddisfazioni. Dio sa, dunque, capisce le mie difficoltà. Sente i miei sospiri sommessi, i miei sfiniti lamenti. Non solo il Padre Celeste ha conoscenza dei miei bisogni, ma sa anche che di questi bisogni ne ho bisogno, cioè egli sa che è necessario e umano che io riceva ciò che desidero. Mangiare, bere, vestirsi non sono cose superflue, come non è superfluo. Ricevere l'amore, l'affetto, la stima, la riconoscenza. Il Padre Celeste lo sa e sa pure che non sono capricci, oppure opinioni soggettive e opinabili. Come senza cibo, il corpo non può sopravvivere. Così l'anima e lo spirito non sopravvivono senza l'amore. Infatti, il numero dei morti, o di coloro che hanno un'esistenza vuota e insignificante perché non si sentono amati, non sono inferiori al numero dei morti per la fame. Dio è a conoscenza dei bisogni dell'uomo e sa che sono da soddisfare. Come si comporta il Dio trino dei cristiani di fronte ai bisogni insoddisfatti dell'uomo? Li ignora o li soddisfa? Che il Dio trino delle Scritture soddisfi tutti i bisogni dell'uomo che si affida a Lui È una opinione da scartare, perché se crash è una categoria di persone che spesso sono private dei più elementari bisogni quali il pane, il vestiario, la stima, l'amore e la comprensione, sono proprio coloro che hanno posto una fede salvifica in Cristo. A coloro che vivono da cristiani Gesù ha promesso persecuzione, incomprensione, disprezzo, abbandono. Il Padre Celeste sa che in queste situazioni, per ragioni di compensazione, ci sono dei bisogni che hanno la necessità di essere soddisfatti. Li soddisfa forse? La risposta di Dio è no, perché Egli vuole che i Suoi figli vivano con dei bisogni insoddisfatti, ma essendo misericordioso ha provveduto ugualmente a risolvere i loro bisogni anche lasciandoli intatti. Proprio perché abbiamo dei bisogni, sia fisici, sia morali, noi cerchiamo di soddisfarli. E questo è lecito, perché Dio non cerca quello che dobbiamo cercare noi. Se ho fame e mi trovo in un bosco, Dio non mi porta il cibo in bocca, ma devo cercare nel bosco ciò che può soddisfare la mia fame. Così, conseguentemente a questo naturale istinto, Gesù ordina ai suoi di cercare prima il regno di Dio di qualsiasi altra loro necessità. Non che cibo, vestiario, amore e stima siano cose sbagliate, perché il Padre Celeste sa che ne abbiamo bisogno. E più che questo ne abbiamo anche il diritto. Ma l'ordine di Gesù è di dare la precedenza all'avanzamento del regno di Dio e della sua giustizia. Dare la precedenza o cercare prima il regno di Dio è una scelta e una scelta non si fa senza privilegiare la volontà di dare la precedenza. Questo spiega la ragione per la quale pochi sono coloro che si impegnano nel campo di Dio, perché lavorare per Cristo non è un servizio che capita per distrazione, ma è un lavoro che va scelto con tutte le conseguenze che comporta, perché Gesù ha ordinato di cercare le necessità di Dio prima delle nostre. Non sembra forse una richiesta egoistica? Perché devo dare la precedenza alle cose di Dio quando io ho delle necessità che non posso farne meno di soddisfare? Se ho fame, perché devo occuparmi prima del regno di Dio? Questa precedenza richiesta da Gesù potrà forse soddisfare i miei bisogni di fame ed amore? La risposta di Gesù è sì. Perché è nel cercare prima gli interessi di Dio che risolvo i miei propri bisogni insoddisfatti. Infatti, Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Un'altra traduzione rende l'affermazione di Gesù in questo modo: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose saranno poste davanti a voi. Dunque, chi cerca prima il regno di Dio realizza qualcosa di straordinario. I bisogni insoddisfatti sono un di più. E, in questo modo che Dio risolve i bisogni insoddisfatti dei suoi figli, se si occupano prima del regno di Dio, le loro necessità passano in secondo piano, e quando passano in secondo piano non hanno più il potere dirompente di sconvolgere la mente. In effetti non sono le cose che ci turbano, ma l'opinione che abbiamo di esse. Se penso che mancare del cibo e del vestiario sia la situazione più drammatica, va da sé che tutta la mia vita sarà improntata a non trovarmi in questa situazione. Ma se l'essere senza pane e vestiti è un'indigenza di poca importanza, non sarò angosciato. Ma com'è possibile sminuire il valore di una necessità di primaria importanza? Vi è un solo modo: considerare maggiore qualcos'altro, o possedere interessi ai quali teniamo di più. Così, se il maggiore interesse è il regno di Dio, allora tutto il resto viene in secondo ordine. Il Padre Celeste sa ciò di cui abbiamo bisogno. Questa verità presa sul serio rende il credente divinamente sereno in ogni circostanza. Se la necessità viene soddisfatta, bene. Diversamente, egli vivrà con dei desideri insoddisfatti occupandosi prima di tutto del regno di Dio e della sua giustizia. E è molto importante avere la convinzione che Dio conosce le nostre necessità e, se vuole, è in grado di esaudirle. E se le nostre impellenti necessità non vengono esaudite, significa che Dio vuole la nostra indigenza. In merito a quello che Dio vuole e a quello che può, mi viene in mente un episodio. Durante le persecuzioni religiose che ebbero luogo in un paese dell'America Latina, un credente perseguitato si rifugiò in un fienile e gli nascose dietro un grosso mucchio di rami. I soldati frugarono per tutta la casa senza trovarlo, ma in seguito si accamparono al piano terreno. La fame, purtroppo, cominciò a farsi sentire e il credente ricorse alla sola risorsa della quale disponeva, cioè la preghiera. La mattina seguente, una gallina, entrando dalla finestra del fienile, venne a fare l'uovo vicino a lui. E questo continuò ad accadere durante i 15 giorni nei quali i soldati occuparono la casa. Altro fatto notevole è che la gallina non cantò mai dopo aver deposto l'uovo, cosa che forse avrebbe attirato l'attenzione dei soldati. Certo, questo episodio non fa la regola di come Dio opera, perché migliaia di credenti hanno sofferto la fame e la nudità, come del resto disse l'apostolo Paolo. Fino ad ora noi soffriamo la fame, la sete e la nudità, 1 Corinzi 4.11, ma l'episodio dimostra che, quando Dio vuole venire incontro a dei bisogni, è in grado di farlo. Così se i propri bisogni rimangono insoddisfatti, significa che questo è il volere di Dio, e per risolvere il bisogno che tormenta sia l'anima sia lo spirito, è saggio dare la precedenza al regno di Cristo. Una precedenza che lascia inappagati i propri desideri e lecite necessità, ma che diventa più che mai salutare perché riesce a lenire la sofferenza dell'indigenza. Non solo, se la consacrazione all'opera di Dio è totale, il credente realizza che i propri bisogni insoddisfatti sono un di più, incredibile, un di più. Il che significa che la presenza o meno di bisogni insoddisfatti non ha importanza, come non ha più importanza avere un piatto di minestra dopo aver gustato un pranzo luculliano. Per chi si sazia del regno di Dio, per chi trova in esso il massimo appagamento e l'obiettivo più grande, tutto il resto, che appartiene a questa vita, perde la forza della sua necessità. Per non sublimare inopportunamente questa verità, il credente non fuggirà dai suoi bisogni insoddisfatti, ma, accettandoli da parte di Dio e come volontà di Dio, si consacrerà senza riserve alla causa di Cristo. Solo così potrà risolvere appieno i suoi bisogni insoddisfatti. Ottobre 2006, Ellero.